sos spațiales pe cele ce ți-o da. Se tu, se tu, se ta. Ed eccoci nuovamente a registrare dalla postazione radiofonica che Radio Città Fujiko ha allestito a Setup Contemporary Art Fair, e sono particolarmente orgogliosa e super mega galatticamente entusiasta di ripresentarvi il co-conduttore occasionale, Michele Pascarella. Ciao, buonasera a tutti, ciao. Che è ancora qui dopo la seconda puntata della giornata, della seconda giornata dei Coxo Speciali a Setup, che per questa volta mi fa da co-conduttore accompagnandomi nel secondo Coxo Focus in programmazione qui a Setup. Il Coxo Focus che si occupa di quelle realtà che a Bologna e nel territorio, a partire da un alveo performativo, vanno poi ad usare altri codici linguistici solitamente istituzionalizzati come di altre arti, arti visive, installative. E sono fierissima di avere qui Fiorenza Menni e Tihana Maravic del collettivo Atelier. Benvenute. Anche noi contentissime di essere qui, grazie. Grazie Fiorenza. Ciao, ciao a tutti, ciao Fedra, grazie di averci invitati. E a parte che comunque per quello che è il vostro percorso, questo il Coxo Focus con voi c'entra tantissimo nella nostra piccola coxicità, però in particolare proprio nei due giorni precedenti ha debuttato, ha visto la scena, è stato restituito al pubblico un lavoro che con il Coxo Focus c'entra tantissimo. E io a questo punto, dopo aver introdotto un pochino questa cosa, passo subito la palla al mio co-conduttore coxico Michele Pascarella. Eccoci qua, ciao. Allora, quello che mi e ci piacerebbe capire un attimo, dobbiamo dedicare qualche minuto, è a questo proprio lavoro che Fedra ha già accennato, cioè questo manuale della figura umana, questo secondo studio per l'allestimento di un impaginato. Ecco, la prima domanda è proprio a Fiorenza rispetto ti chiederei una piccola descrizione ad uso di chi non ha visto questo lavoro, se mai non ha visto questo secondo studio, se mai non ha visto neanche il primo, per capire in pratica cosa accade in scena, così che appunto chi ascolta può già farsi un'idea di cosa stiamo parlando, e poi magari anche capire qual è l'artista visiva che insieme a te è alla base, alla partenza, all'origine di questa proposta. Quindi la prima domanda è: ci racconti un po' cosa accade e chi è la persona che insieme a te ha dato origine a questo manuale della figura umana? Dunque, in scena accadono più cose attorno ad una principale azione, che è la costruzione del muro, la costruzione di un'opera di Marta Dell'Angelo. E per quanto mi riguarda è la possibilità di restituire al pubblico l'opportunità di perdersi in una danza di gesti del reale, obbligati quindi a livello proprio drammaturgico a mantenersi in una zona di applicazione reale, di applicazione vera, non curanti loro dall'interno del ritmo della scena. È un problema, il ritmo in questo caso è un problema completamente esterno, totalmente a loro viene proprio consegnato una libertà e un agio d'azione, con lo scopo di creare la reale possibilità di muoversi in maniera non artificiale. Ma muoversi facendo che cosa? Allora ci sono in scena ci sono sette interpreti, per cui quattro si occupano della costruzione del muro di Marta, e di questo magari ne parliamo dopo, e ci sono due giovani attrici e c'è una ginnasta. Quindi muoversi significa creare un sostegno immaginifico, come sempre in teatro. Questo studio, sì, ha trovato luogo di riflesso ad un percorso di costruzione articolato su dei percorsi di residenza. E infatti, se non sbaglio, poi correggetemi, si tratta di un processo realizzato tra Atelier e Nosadella 2, e questi incontri con l'artista Marta Dall'Angelo, che sì, viene principalmente dal figurativo, se non erro, sì, dalle arti visive. Sì, sì, sì. E mi sono stati descritti da Elisa Del Prete in una precedente trasmissione di Coxo Spaziale sulle frequenze FM 103.1 come un incontro reciproco tra appunto un artista del teatro e, certo, un artista, e mi ha descritto questi dialoghi e questo incontrarsi e anche chiedersi ma tu come fai, proprio anche dal punto, certo, di vista delle prassi, e io sono molto, certo, interessata ad avere. Allora, dunque, guarda, vi introduco allora un attimo proprio in maniera più semplice una piccola storia, che è la storia dell'incontro tra Marta e, sì, sì, sì, sì, e me. Sì, sì, sì. Ok. Qualche anno fa mi è capitato nelle mani questo libro di Marta, un'opera di Marta, un libro d'artista, che è il Manuale della figura umana. E è proprio un libro in cui lei raccoglie materiali e immagini, fa un percorso proprio di attraversamento di quello che è il corpo umano, proprio come nei manuali, e attraverso proprio capitoli dedicati alle gambe, alle mani, alla testa, all'intero, eccetera. E all'interno di questa struttura in realtà c'è questo attraversamento iconografico con una forte qualità emotiva. E quando io l'ho avuto per le mani, è anche di una bassa qualità questo libro d'artista, l'ho avuto per le mani, ho iniziato a sfogliarlo e mi è venuto da piangere. A metà libro ho iniziato a piangere e mi sono detta che strano, perché non è un libro, non è un oggetto pregiatissimo, eppure non mi stacco e mi commuove e ci ritorno. Le parole che leggo sono anche parole che scarto e che poi ritorno. E quindi mi ha stranamente attaccata. Attaccato e anche attaccata. E poi ho avuto modo di conoscere Marta. No, anzi, prima ho, all'interno di un mio lavoro, un lavoro che per me era un grande grido, e l'Austria, avevo costruito uno spettacolo in cui c'ero solo io e un musicista. Poi questo lavoro io l'ho consegnato ad un'altra attrice, perché l'ho guardato da fuori e ho pensato che non ero io l'interprete adatta, ma avevo bisogno di spostarmi, avevo bisogno di definire uno spazio centrale ad una interprete, secondo me, ofelica, totalmente ofelica, e ritirarmi in un bosco, in una selva, in un luogo adatto ad una Medea, così come in quel momento mi sentivo. E non sapevo come muovermi, non sapevo che posizioni avere io, sapevo che posizione dare agli altri. E ho trovato spunto dal manuale. E Marta ha saputo questa cosa, è venuta a vedere il lavoro, e lì ci siamo incontrate. Ci siamo conosciute e lei mi ha detto: guarda, io sono anni che penso di fare un lavoro teatrale su questo mio libro. E dunque, sono troppo prolissa? Assolutamente, okay. No, mi sto bevendo ogni singola, okay, immagine. Okay. Perché allora, dopodiché c'è un altro passaggio. Il libro d'artista viene declinato all'interno di mostre, gallerie, eccetera, eccetera, con quelli che lei chiama impaginati, che sono sostanzialmente la creazione, l'esplosione, il postare su un muro quello che lei in qualche modo ha costruito all'interno dei suoi capitoli nel libro. Ecco, e quindi il suo sogno era quello di lavorare teatralmente su quel materiale. E così abbiamo deciso in maniera, secondo me, folle, perché si rischia, perché è un rischio totale quando metti veramente vicino due artisti, quando metti veramente vicino due discipline, è un rischio immenso. E quindi abbiamo deciso di cominciare. E da più di un anno abbiamo fatto appunto regolarmente questi incontri, che sono stati proprio incontri di scambio. Ci stiamo giocando, io e il co-conduttore Michele Pascarella, ci stiamo giocando, siamo presissimi, ci stiamo giocando il microfono. Io ero interessata a questo rischio totale. Michele, tu invece? No, io avrei una domanda per Tikhana Maravich, che rispetto al discorso di un libro in qualche modo all'origine di questo lavoro, e cioè Tikhana, che si occupa sicuramente di tutte le questioni anche legate all'organizzazione del vostro collettivo, ma anche sicuramente a questioni legate allo studio, alla teoria, all'alimentazione anche teorica. Tikhana è una studiosa di arti performative, eccetera, eccetera. Mi piaceva capire se in questo progetto c'è stato, Tikhana, un tuo suggerimento, dei tuoi consigli di lettura, non so come chiamarli, o comunque un tuo contributo appunto teorico da studiosa alla creazione di Marta e di Fiorenza nello specifico. No, direi di no, che non c'è stato un specifico contributo teorico per, come dire, stimolare il pensiero su questo lavoro, perché il pensiero è già stato stimolante per tutti i partecipanti di questa creazione già di suo. Devo dire che è un progetto che ci ha divertito molto e che ha creato molto movimento, che è partito soprattutto dall'incontro di queste due donne, di queste due artiste, Marta Delangelo e Fiorenza Meni, che provengono da due discipline diverse. Poi arriviamo Elisa Del Prete ed io, che in qualche modo ci siamo occupate sì della cura di fare da tramite tra il mondo esterno e il mondo interno nostro della creazione. Io e Fiorenza abbiamo un dialogo quotidiano e infatti il tuo nome mi ha risuonato strano, ovviamente. No, ma era un no su un specifico lavoro di ricerca, di drammaturgico, mi verrebbe da dire. Sicuramente c'è un dialogo quotidiano e c'è uno sguardo mio proprio da spettatrice, perché in questo lavoro quello che a me mi ha incuriosito molto è proprio il ruolo dello spettatore. M'intéresse et je ne fais pas de comparaison. Quel bon ton, j'ai besoin d'une caresse, une tigresse qui fasse ronron. J'ai envie d'une bouillabaisse, m'intéresse. n'en dirai pas la raison. Je suis homme, j'ai besoin d'une négresse, une noblesse, un pantalon. Les cochons, ils ne vieillissent pas, ils deviennent des saucissons. Quelle tendresse. Mais les hommes, tant qu'ils vieillissent, ils deviennent des cochons. Ah, j'ai besoin d'une petite tendresse, m'intéresse. Je n'en dirai pas la raison, mon bon ton. J'ai besoin d'une maîtresse, quelle caresse, quelle tigresse. M'intéresse, m'intéresse, m'intéresse, m'intéresse, m'intéresse, m'intéresse, m'intéresse. Non c'è un segnale, no, segnale questo, via, ok. Oh, eccoci qua, siamo di nuovo qua e con Fiovenza Meni, Tikana Majavic del collettivo artistico Atelier si a parlare di questo lavoro manuale della figura umana, secondo studio per l'allestimento di un impaginato. Ma dove siamo? Con Fedro Boscaro Boscaro, dove? Tu, fra l'altro, cosa sei nello specifico, Michele Pascarella, adesso? Ma io cosa sono? Sono un conduttore. Coxico. Eccolo là. E siamo agli speciali di Coxo Spaziale, in particolare questa è una puntata Coxo Focus. Coxo Focus, piena di gioia, piena di... qui in mezzo a tutte queste persone, a tutta questa creatività e siamo, abbiamo lasciato, messo una cesura a questo spettacolare racconto su questo lavoro che tanto... Ci incuriosisce e c'entra col Coxo Focus. Molto. E adesso vi confido che io e Michele ci stiamo giocando un pochino la domanda, perché lui ce n'ha una molto... io ce n'ho un'altra e quindi... Chi va prima? Ok, facciamo così, facciamo pari dispari, io dico dispari, pronti? Album del canale che fa, boom, torna! Quattro pari tu. Ho vinto io. Ok, quindi io ero rimasta, allora, ricapitolando un attimo, parlavamo della commistione fra di diversi linguaggi e Fiorenza ci ha raccontato della genesi di questo incontro tra lei, proveniente dall'Albero del Teatro, e Marta Dall'Angelo, artista visiva. E mi hai detto... Hai detto prima che quando le arti si incontrano ci si espone ad un rischio totale e io fremo di curiosità. Beh, sì, dunque la questione è complessissima ovviamente. E il rischio, beh, innanzitutto il rischio è quando due identità così profondamente definite e decise all'interno di un autonomo linguaggio si decidono di lavorare insieme. E per fare questo bisogna predisporsi, così come quando ci si predispone in teatro tecnicamente al dialogo, in cui la regola principale è l'accoglienza e non è l'imposizione. Per cui se io ho la determinazione rispetto ad una maniera attraverso la quale vorrei parlare, so che in quel caso per poterlo fare in realtà devo essere capace di accogliere. E questo per me è comunque alla base del mio lavoro, per cui ero abbastanza sicura su di me rispetto a questo, ero abbastanza tranquilla di poter, di sapere in quali momenti avrei potuto fare i passi indietro per poter rimanere diciamo decisa in questa logica. E non ero così convinta che Marta Dell'Angelo, artista visiva, quindi neanche abituata a quello che è comunque la baraonda della costruzione teatrale, in cui si è tanti e in cui veramente l'odore altrui devi avere veramente l'abitudine agli umori, agli odori e alle questioni così in tanti condivisi. Ovviamente Marta Dell'Angelo è tutto sulle sue spalle, è proprio la qualità proprio della questa strana solitudine anche, no, che hanno gli artisti visivi. E per cui e questo è stato un rischio grande. L'altro rischio è la banalizzazione della relazione, cioè quello che poteva essere mettere a disposizione reciprocamente il proprio materiale per una sorta di servizio. Quindi lei come scenografa, no? Perché è artista visiva, e io in qualche modo, non lo so come si possa banalizzare un lavoro di scrittura. In realtà tutto questo l'abbiamo, credo, veramente evitato. Abbiamo proprio lavorato perché, secondo me, ognuna delle due ha chiaro l'autonomia del discorso. E abbiamo anche chiaro... ogni tanto ce lo diciamo, ci trattiamo reciprocamente come due regine e questo ci ha permesso di arrivare ad una vera commistione. E commistione, per quanto mi riguarda, significa che io ho tratto dal suo coraggio materiale adatto al mio linguaggio, materiale adatto alla possibilità di costruire veramente ancora, perché per me andare in scena, mettere in scena ogni volta una cosa nuova è veramente un cruccio di senso. Che senso ha? Che quale forma? Quale... Sono abbastanza in crisi con, diciamo, la storia del teatro. Non amo particolarmente la classicità, insomma, sono veramente abbastanza in crisi con questo, per cui ovviamente fare questo passaggio in un paesaggio così diverso, che ha proprio logiche completamente avulse dal teatro, ha sicuramente, per quanto mi riguarda, dato senso ancora all'ipotesi di costruire dialoghi, di costruire movimento, eccetera. Grazie. No, passo la palla a Michele. Poi avrai qualche altra curiosità, però la rimettiamo in coda, semmai. Semmai la mettiamo in coda, sì. No, mi stanno sorgendo un sacco di domande, di dubbi e di... comunque, torniamo a quella che abbiamo detto prima. E molte. Anch'io tantissimi dubbi, comunque. Tante domande. Però, insomma, ritornerei almeno alla questione prima già nominata, cioè la questione del rapporto di cui Ticana parlava, il rapporto fra lo spettatore e l'opera in questo caso, e nello specifico mi piaceva capire quali suggerimenti, quali incoraggiamenti sono stati dati alle 8 persone, le 8 figure in scena, rispetto proprio a questa questione, a questo punto, di come, in che modo e se avere relazione con chi è lì per guardare l'opera, con lo spettatore. Beh, dunque, innanzitutto queste 8 figure ricoprono 4 qualità diverse, per cui ognuna di loro ha c'è un gruppo di 4 che ricopre una qualità, una zona di intervento, e un'altra persona, un'altra interprete che ha tutta un'altra logica, tutto un altro posizionamento e tutta un'altra relazione, e così anche un'altra interprete e le due ragazze pure, per cui sono 4. Tu mi hai fatto una domanda che, non so, adesso io vengo da mesi di pensiero su questo, quindi dovrei stare qua qualche settimana, ma non possiamo, quindi devo essere veramente molto... Per cui ti posso dire che ci sono due zone in cui si lavora di spalle, e per me è bellissimo pensare che si possa lavorare di spalle, dare le spalle al pubblico per così tanto tempo, per poter creare questa attenzione furibonda, direi. E quindi a loro l'attenzione, l'indicazione più grande rispetto al pubblico è quello di vederli con tutta la parte posteriore del corpo. Per me è una questione proprio cellulare, di come l'ossigeno si dispone all'interno del corpo durante l'inspiro e l'espiro, e quindi tu, se hai una tensione verso diciamo la tua zona posteriore del corpo, devi lavorare sul tuo ossigeno in quel modo, in modo da avere come se l'ossigeno fosse vista, fosse sguardo, e quello sguardo è rivolto verso il dietro. Diciamo, questa è una zona di relazione col pubblico. C'è una zona più semplice, che è un'attrice che sta all'interno, sta proprio dentro il pubblico, e quindi lei ha più semplice da descrivere, ma probabilmente per lei più complicata, perché invece lei ha una relazione diretta. A un certo punto irrompe con una relazione con tutti quanti e si gestisce la prossimità. E poi c'è una relazione, se vuoi, più classica, che è questa entrata proprio in scena, quindi situazione luce, scena, visione frontale, relazione, azione e conclusione. Queste sono le quattro maxi. Sì, ecco, io farei una domanda a Ticana in quanto spettatrice, per quanto vogliamo chiamarla spettatrice, forse privilegiata o comunque interna. Preferita. No, preferita, privilegiata, interna, ma comunque quindi non c'è una neutra che passava di lì, a parte che non so se quanti voi ne abbiate di spettatori veramente casuali, credo che comunque abbiate degli spettatori comunque intenzionati, attenti, che vogliono esserci. Comunque, sì, no, qualcuno che sbaglia indirizzo c'è. Che capita proprio. Sì. Però insomma la mia domanda è questa. E veramente qui io ci terrei a non dare per scontato, pensando che chi ascolta non per forza è avvezzo a questi linguaggi, a queste forme, eccetera. Quindi senza dare per scontato nulla, penso appunto a chi non è abituato a questi linguaggi. La mia domanda è: uno che guarda quest'opera vede un po' di più, tra virgolette, una mostra, vede uno spettacolo, e se è uno spettacolo si aspetta un racconto, una narrazione, cioè vado lì e mi racconteranno una qualche storia, sì o no? Cioè secondo te con quali occhi uno spettatore, ripeto, di quelli non particolarmente abituati, possono vedono questo lavoro? Che cos'è? È una mostra? È uno spettacolo? C'è una storia? Non c'è una storia? Che cos'è? Che cos'è questo? Sono i nostri preferiti, e quando pensiamo al posizionamento dello spettatore all'interno dell'opera teatrale che proponiamo, sono soprattutto loro ai quali poniamo maggiore attenzione e i quali vorremmo in qualche modo suggerire, forse, soprattutto questa parola di suggerire era importante in questo lavoro, proprio perché sta tra le due arti, tra l'arte teatrale e tra l'arte visiva, e si apre al performativo. Mi verrebbe da dire che questo è quello che è successo, anche se noi non l'abbiamo voluto, non era una nostra prerogativa, però ecco, l'allestimento di un impaginato vuol dire che una buona parte centrale di tempo, quello che succede in scena è proprio questo, si allestisce un'opera d'arte. Questo è un tempo che abbiamo chiamato un tempo rubato, un tempo privilegiato, perché è come se qualcuno venisse al setup il giorno prima dell'inaugurazione e partecipa alla costruzione, quindi partecipa a quello che normalmente non è dato ad essere visto, e quindi diventiamo tutti voyeuristi in un certo senso in questo tempo centrale, e quindi in questo tempo centrale a noi che è performativo, allo spettatore in qualche modo è stato suggerito uno stare rilassato. Non è facile, perché lo spettacolo inizia con una scena teatrale, un bellissimo monologo, chi lo chiama monologo, chi lo chiama dialogo, adesso non posso rivelare tutto perché speriamo che sia voi, Fedra e Michele, vedrete questo lavoro, anche gli spettatori che ci ascoltano da casa, però ecco, inizia con una scena propriamente teatrale. Gli spettatori è suggerito uno sguardo mirato, intenso, concentrato. Non è facile cambiare questo in quest'altra modalità, che è più di passaggio, diciamo così, dove lo spettatore diventa più uno spettatore di una galleria d'arte, dove passa, può permettersi forse addirittura di rispondere al telefono, non siamo arrivati a tanto, però può chiacchierare un po' con chi gli sta accanto, può cambiare posizione, può avvicinarsi all'allestimento per vederlo da vicino, perché per me è stato molto interessante, avendo io potuto sperimentare lo sguardo distante e lo sguardo vicino, cambia tantissimo l'esperienza, e quindi questa è una cosa che noi abbiamo in qualche modo drammaturgicamente voluto suggerire, che lo spettatore da lontano può andare in prima fila. Ecco, non è facile, perché siamo molto obbedienti, c'è comunque un rispetto del teatro, e quindi già il fatto che questo avviene in uno spazio teatrale crea uno stare molto rispettoso, quasi troppo. Io non vedo l'ora che ci sia nuova occasione, ritornerà presto, spero. Speriamo, sì, vedremo. Ora abbiamo appena finito, dunque mi voglio riposare un attimo, Petra. Ancora, ancora, di nuovo. Beh, io metterei un'altra pausa, poi magari ritorniamo per i saluti e intanto prendiamo un po' di... lasciamo decantare queste visioni con un brano. September reverses and the equinox is flipped. Winter slides into fall. When glimpsed in leaps of 9 months or more, the seasons reverse. The spring back and the fall forward. You shuffle when you touch down at the mall. September reverses and the equinoxes flip. And summer becomes spring. The seasons reshuffle at the span of a year and a half. September reverses and the equinoxes flip. They reshuffle when you touch down after long. Don't worry, keep doing it. I'm just recording you. It's a microphone. C'est quoi ça? Oh, what time? Non, mais ça. This? What? It's a microphone. I'm recording you blowing off firecrackers. Is it okay? Is it okay if I record you setting off the firecrackers? Ma caro Michele, come sono contenta, sono contentissima. La seconda puntata del Coxo Focus è, cioè, è galattica. Beh, anche la prima è stata stratosferica con i fratelli Brosch. Domani avremo la terza con il Festival per Aspera. Però poi è anche ricca di sorprese. Adesso infatti è arrivata un nuovo super mega Coxo ospite, un mega galattico anche lui come le due precedenti. Si aggiunge infatti Andrea Mochi Sismondi, che è niente po' di meno che il co-direttore artistico insieme a Fiorenza Manni del collettivo Ateliersi. E lui mi sa che risponde alla domanda finale, che è la domanda del... La domanda finale, caro Andrea, riguarda questo Coxo Focus, cioè questo format, questo contenitore, insomma, all'interno della trasmissione che riguarda principalmente quei territori un po' innominati, innominabili, in cui una disciplina scivola nell'altra, si mescola e non si sa più bene che cosa si sta guardando. Sto guardando una mostra, uno spettacolo, un concerto, è danza e teatro, non si sa. Ecco, proprio questi territori mescolati e complessi, soprattutto per chi non ha confidenza con questi mondi, è l'oggetto di questo Coxo Focus. Bene, Andrea, tu sei appena arrivato e come diceva Fedra, co-direttore di Ateliersi, uno dei tre qui presenti componenti, ecco, di questo collettivo artistico, vorremmo chiederti proprio questa questione. Tra l'altro, questo manuale della figura umana non è la prima volta che come collettivo Ateliersi mescolate le carte, diciamo così, cioè mescolate le arti visive con la musica, con la performance, eccetera, ma non avendo troppo tempo, purtroppo, dovendoci limitare a una proposizione, qual è questo manuale della figura umana, vorremmo chiederti questo. Ci puoi raccontare quale forma ha preso dal tuo punto di vista, quindi non di regista direttamente, non in scena direttamente, questa questione di questo mescolamento? Cioè, raccontaci un po', questa cosa un po' innominata e innominabile. Fiorenza ci ha detto qualche cosa dal suo giustamente punto di vista, Ticana anche, tu come terza parte di questo collettivo Ateliersi, come vedi il mescolamento delle discipline e delle forme in questo manuale della figura umana? Per me è stato molto divertente, anche proprio per la posizione che avevo in relazione a questo lavoro, cioè potendolo vedere dall'esterno, è molto forte il fatto che si giochi con la relazione tra finitezza dell'opera d'arte, momento nel quale l'opera d'arte diventa prodotto, e costruzione dell'esperienza performativa. Quindi sostanzialmente dare in pasto a chi si occupa di ragionare con dei prodotti finiti come sono le opere, che quindi vengono estroflesse dall'artista e poi iniziano una loro circuitazione, una loro acquisizione di senso che prende relazione con quello che è quelli che sono i must in quel momento, quello che è l'autenticità dell'artista, quello che è il mercato, quindi inizia ad essere, diciamo, semantizzata dall'esterno. E dall'altra parte la parte performativa, che durante l'esperienza che se ne fa stando in teatro costruisce senso, mischiare queste carte è stato per me è molto interessante, nel senso che stiamo dando in pasto a persone che lavorano sull'opera finita un percorso e un'esperienza di vita, e dando in pasto a persone che sono pronte a fare esperienze teatrali la costruzione di qualcosa che poi dopo si stacca, no? Ma ad esempio rispetto alla fruizione, appunto, avete avuto qualche riscontro di persone che hanno avuto, diciamo così, un disagio rispetto a questa innominabilità, a questa inclassificabilità che è tipica appunto dei vostri lavori e forse anche di questo, o no, o non c'è stato? Io direi che c'è stata una posizione di un po' di disequilibrio quando le persone sono uscite dal teatro, ma è una posizione che mette in movimento. Quindi per voi è auspicabile, ecco. Auspicabile, divertente e assolutamente nella prospettiva di quello che ci interessa fare. Io sono grata, ma sinceramente, a tutti voi quattro. E spero davvero che ci sia presto una ripresa del lavoro, perché le domande, come si diceva anche prima con Fiorenza, sono ancora tante, sono lì che navigano fra i pensieri e non vediamo l'ora di rinchiodarvi al coxo e rifarvene altre. Ringrazio tantissimo te, Michele. Grazie a voi, grazie, grazie. E poi ringraziamo Ateliersi. Anche noi ringraziamo. Grazie, grazie a voi. Grazie. E anche questo luogo. E anche questo era il Coxo Focus. Coxo spaziale, speciale, eccezionale. Sei tu, sei ta speciale. Coxo spaziale, speciale, eccezionale. Sei tu, sei tu, sei ta.